Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Successo Regeni è il giorno di Matteo Renzi, premier all'epoca dell'omicidio. Dopo il delitto, ha detto in aula l'ex presidente del Consiglio, ci fu rottura totale con l'Egitto. Auto tampona un camion in A4 tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Due morti, gli occupanti della vettura con targa croata. La base USAF di Aviano annuncia 44 licenziamenti, altre 30 posizioni a rischio. Decisione definita inaccettabile dai sindacati e in forte contrasto con gli accordi bilaterali. Approda in Consiglio regionale la proposta di referendum per abrogare la legge sull'autonomia differenziata. Compattamente contrario al centrodestra, opposizioni unite per il sì. Giornata di anteprime per Pordenone Legge, tra gli ospiti Monica Maggioni e Luca Zaia, tra le biografie quella di Lino Zanussi e, per la storia, la disfatta di Caporetto. Al MIB di Trieste, 160 discendenti di emigrati da 17 paesi e il raduno ventennale del corso Origini Italia, progetto che sostiene i partecipanti con corsi di alta formazione. Recuperati in Germania e curati alla riserva naturale regionale del lago di Cornino, liberata una coppia di grifoni che ora verrà monitorata. Ancora una buona giornata da Lara Zani e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Al processo Regeni in corso a Roma davanti alla Corte d'Assise il giorno della testimonianza di Matteo Renzi, all'epoca Presidente del Consiglio. Sono stato informato il 31 gennaio dalla Farnesina e mi dissero che qualcosa di grave era accaduto a un nostro ricercatore. Se mi fosse stato chiaro da subito avremmo potuto attuare qualcosa in più, ma il comportamento della Farnesina è stato legittimo. Noi mettiamo in campo tutti i nostri strumenti perché c'era crescente preoccupazione da parte degli apparati che, come fisiologico, erano già a conoscenza della vicenda. Se dal 26 al 31 gennaio la Farnesina ha ritenuto di tenere bassa una vicenda così complessa, avrà fatto una sua valutazione. Conosceva i rapporti con il presidente egiziano Al-Sisi, ha detto Renzi. Poi il 31, quando ho sentito l'ambasciatore, era molto pessimista. Ricordiamo che il corpo del ricercatore di Fiumicello fu ritrovato il 3 febbraio. E ancora, dopo il delitto abbiamo reagito affermando che non avremmo accettato verità di comodo, ha detto l'ex premier, che ricorda di aver ritirato l'ambasciatore dall'Egitto. Oltre a quella di Renzi, prevista anche la testimonianza di Marco Minniti, allora ministro dell'Interno. Sono due persone di 40 e 65 anni, probabilmente di nazionalità croata, come la targa dell'auto sulla quale viaggiavano, le vittime del grave incidente avvenuto questa mattina, poco prima delle 5.30, sul tratto a tre corsie dell'autostrada A4 tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana, in direzione Venezia, all'altezza del comune di Porpetto. La vettura a bordo della quale viaggiavano le due vittime ha tamponato violentemente un auto articolato che viaggiava nella stessa corsia, quella centrale di sorpasso. Sul luogo del sinistro sono giunti la polizia stradale, i vigili del fuoco di Udine, l'elisoccorso, il 118 e il personale di Autostrade Alto Adriatico. I soccorsi si sono tuttavia rivelati inutili e i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Due corsie dell'autostrada sono rimaste temporaneamente chiuse per consentire la rimozione dei resti. Un incendio sul tetto di uno stabile ha provocato ieri sera l'esplosione di una bombola a gas e è accaduto in via Ricci a Trieste. Nessun ferito né tra i residenti né tra i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del rogo, ma tante persone in strada spaventate dal forte botto udito in molte zone della città. Le operazioni di bonifica e di raffreddamento si sono concluse nella notte, da accertare le cause dell'incendio. Torna a riunirsi il Consiglio regionale, oggi spazio per il Question Time, per il voto sull'elezione del nuovo garante per i diritti della persona e per la mozione bipartisan sul riconoscimento delle comunità marine di Grado e Lignano. In discussione anche il referendum relativo alla legge nazionale sull'autonomia differenziata, un tema che verrà esaminato assieme a una mozione del gruppo Patto per l'autonomia civica. E a ottobre l'aula sarà convocata per l'esame della manovra di assestamento bis. Ma sentiamo la cronaca della giornata. 5 consigli regionali hanno votato per l'abolizione alla legge Calderoli. Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana vorrebbero con un referendum abrogare la legge sull'autonomia differenziata. Superate a livello nazionale le 500.000 firme raccolte, una richiesta di abolizione che invece è già stata respinta in commissione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e oggi approda in aula. Primo firmatario della proposta di referendum abrogativo Diego Moretti, PD, che sottolinea come la legge Calderoli possa essere in realtà un nemico della specialità della nostra regione. Preoccupazione che il Consiglio regionale sardo ha messo in evidenza. Secondo Morettuzzo, una legge inapplicabile, uno scambio di favori all'interno della maggioranza. Per Maurmair, Fratelli d'Italia, invece si tratta dell'occasione per vedersi attribuite maggiori competenze come gestione, sovrintendenze e soprattutto scuola. Secondo Caligaris, Lega, una richiesta di referendum che va contro questo territorio perché si tratta di una legge che si applica anche al Friuli Venezia Giulia e quindi oggi in aula si potrà capire, secondo il consigliere, chi è per l'autonomia della nostra regione e chi no. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'annuncio al termine della commissione congiunta delle tre forze armate americane delle basi in Italia. 44 licenziamenti e 30 posizioni a rischio alla base USAF di Aviano. Immediata la reazione dei sindacati. C'è la precisa volontà di appaltare i servizi. 44 licenziamenti nell'area commerciale e altre 29 posizioni a rischio. Le organizzazioni sindacali Wiltux e Fisasca CISL hanno proclamato lo stato di agitazione a seguito dei possibili esuberi di personale civile italiano in forza alla base aerea di Aviano, comunicati all'esito della riunione congiunta annuale delle forze armate americane nei siti italiani. Per la sede friulana sono state annunciate 40 posizioni a rischio nell'area dei negozi, l'esternalizzazione dell'ufficio paghe, 4 unità più altri 29 posti sotto osservazione per la mensa e il club ricreativo. Angelo Zaccaria è segretario Wiltux Pordenone. Una cosa inaccettabile perché una parte di questi servizi vanno appaltati all'esterno, cosa che noi non concepiamo e non accetteremo mai. In più si mettono a rischio 40 famiglie che creeranno un disagio e una tensione sociale non indifferente. Ci hanno annunciato anche di 29 posizioni sotto osservazione, che sono delle posizioni di lavoratori italiani e che stanno con la spada di Damocle e rischiano di perdere il posto di lavoro. Tutta questa cosa è inaccettabile perché negli anni stiamo osservando una riduzione del personale locale, cosa che va in contrasto con gli accordi bilaterali che prevedono come contropartita della servitù militare una occupazione di personale civile italiano. Le organizzazioni sindacali preannunciano una serie di iniziative per scongiurare i tagli dal presidio in prefettura allo sciopero. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La polizia di Pordenone ha dato esecuzione a un provvedimento di cumulo pene emesso dalla locale procura nei confronti di un cittadino rumeno 54enne, residente a Sacile, condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. L'uomo, responsabile di furti in concorso con la moglie nei centri commerciali della provincia, ha anche maltrattato la donna dal 2003 al 2018. Le indagini proseguite per qualche giorno hanno permesso di rintracciare l'arrestato in un immobile nel comune di Sacile. L'uomo è stato condotto in carcere. Irregolarità fiscali da parte di 12 società commerciali in materia di omessa presentazione delle dichiarazioni catastali e IMU, nonché evasione dell'imposta municipale propria dell'imposta locale immobiliare autonoma a Lilia, per un mancato gettito fiscale stimato attorno ai 50.000 euro, e quanto riscontrato nell'ambito di un'attività di controlli in materia di demanio marittimo dai finanzieri della stazione navale di Trieste. I militari hanno sottoposto a controllo nel primo semestre dell'anno circa 1.000 metri quadrati di demanio marittimo ricadenti nelle aree portuali del punto Franco Nuovo di Trieste e affidati in concessione demaniale a imprese commerciali, per lo più operanti nel settore dei servizi logistici relativi al trasporto delle merci. E ora uno sguardo al tempo. Cielo da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 21 gradi con vento a 26 km orari da est-nord-est, Bora, con raffiche che nella notte hanno raggiunto i 62 km orari. Mare poco mosso con temperatura di 21 gradi. A Pordenone 19 gradi, a Gorizia 22 gradi e 5 decimi, a Udine 23 gradi e 5 decimi. A Sappada 10 gradi, a Piancavallo 11 gradi e mezzo, a Tarvisio 12 e mezzo, a Forni di Sopra 14 gradi e mezzo, a Tolmezzo 20 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 5 gradi e sul Monte Zoncolan 7 gradi. A Lignano 21 gradi, temperatura del mare 18 gradi e mezzo, a Grado 21 gradi e mezzo, temperatura del mare 22. Le previsioni dell'ARPA regionale: questo pomeriggio avremo in cielo in genere nuvoloso, possibile qualche breve e debole pioggia nelle ore centrali della giornata, in montagna e sulla fascia orientale. Soffierà bora sostenuta sulla costa, con raffiche anche forti sul Carso e a Trieste. In quota soffierà vento moderato o sostenuto da nord-est. Seconda giornata oggi di Pordenone Legge con una serie di anteprime tra cui quelle dei giornalisti Monica Maggioni e Antonio Polito e del presidente del Veneto Luca Zaia che presentano i loro libri. Ma sentiamo il programma. Mattinata dedicata come sempre a bambini e ragazzi delle scuole a Pordenone Legge. Da quest'anno protagonista della rassegna è anche l'ARPA FVG, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, con una serie di appuntamenti rivolti alle scolaresche nelle varie giornate del festival. L'obiettivo è promuovere l'educazione ambientale, non solo la conoscenza del mondo che ci circonda, ma anche il rispetto per la natura e la protezione degli ecosistemi in cui viviamo. Pratiche messe a rischio, spiegano gli esperti dell'ARPA, da una sempre minore propensione di bambini e ragazzi a vivere all'aperto e immersi nella natura. Tra gli appuntamenti salienti della giornata, alle 15.30, la Casa dello Studente, lo storico Gustavo Corni, sull'esperienza del Friuli e del Veneto orientale occupati dopo la rotta di Caporetto. Alle 17, nella sede di Confindustria Alto Adriatico, il romanziere tedesco Daniel Schulz col libro Eravamo come fratelli, sull'ascesa dell'estrema destra nei Länder dell'ex Germania Est. Alla stessa ora, al Capitol, Vittorino Andreoli e la sua lettera sull'amore. Mentre alle 18 il giornalista Francesco Costa, vice direttore del Post, grande esperto degli Stati Uniti, spiegherà al pubblico di Piazza della Motta perché questo sarà un nuovo secolo americano. Alle 19 di nuovo al Capitol con un incontro con Arrigo Sacchi. In contemporanea la giornalista Rai Monica Maggioni all'auditorium della Regione parlerà degli spettri del nostro tempo presente e del male che credevamo di esserci lasciati alle spalle. Panel e ospiti anche nel dopocena di Pordenone Legge. Il presidente del Veneto Luca Zaia presenta il suo libro autobiografico Fa presto, vai piano, alle 21 al Capitol e alla stessa ora, tornando in Piazza della Motta, l'editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito interverrà sulle 5 lezioni di De Gasperi ai politici di oggi. Pordenone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Trieste calano gli incidenti stradali, ma resta invariato il numero delle vittime. Nel 2023 sono stati 790, l'88% in meno, con 5 vittime, come nell'anno precedente, 958 feriti a fronte dei 1032 del 2022. Sono i dati principali forniti in occasione della presentazione della manifestazione organizzata a Trieste per sabato 21 settembre da Automobile Club, Regione e Comune nell'ambito di un progetto sulla sicurezza. Nel 2023 nel comune di Trieste gli incidenti stradali sono stati 790 con 5 vittime, 3 conducenti e 2 pedoni e 958 feriti. I dati sono dell'ACI e dell'Istat e sono stati illustrati in una conferenza stampa per presentare l'evento Trieste for Safety FVG che si svolgerà sabato 21 settembre in Piazza della Borsa e nel parcheggio della Risiera. Si tratterà di un'attività formativa di educazione alla sicurezza stradale in collaborazione tra il comune e l'Automobile Club, la Regione e la Polizia Stradale per illustrare i concetti della sicurezza stradale a giovani e meno giovani attraverso esperienze come simulatore di guida e crash test e poi con una pista dove effettuare altre simulazioni nel parcheggio della Risiera di San Sabba che sarà collegata con Piazza della Borsa attraverso delle navette. Si tratta di un'iniziativa importante, ha detto l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, perché abbiamo il dovere morale di prevenire gli incidenti che poi hanno dei costi sociali per tutti a lungo termine. Costi sociali che sempre i dati di ACI e Istat stimano in 62 milioni nel solo comune di Trieste per gli incidenti relativi al 2023. Il vicepresidente dell'ACI di Trieste, Riccardo Novacco, ha detto invece che ci sono ancora troppi incidenti e l'obiettivo della sicurezza è imperativo a partire dai ragazzi, ma anche per tutte le classi d'età, soprattutto anche per gli anziani che magari devono rispolverare le loro conoscenze di sicurezza. Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una lettera alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al neocommissario Raffaele Fitto perché non lascino sola la regione Friuli Venezia Giulia nel progetto del prolungamento della superstrada Cimpello-Sequals. L'eurodeputato Anna Maria Cisinta ha scritto al vertice delle istituzioni comunitarie segnalando l'importanza che da Bruxelles giunga un assist, anche finanziario grazie al PNRR, per l'ammodernamento dell'opera. L'onorevole della Lega vorrebbe che la UE partecipasse alle spese di progettazione e di realizzazione di questa infrastruttura, qualunque sia il tracciato che alla fine verrà individuato dalle comunità locali e dai tecnici. Nella nota inviata alla von der Leyen e al commissario italiano si chiede un impegno formale dell'Unione. Secondo l'esponente del Carroccio, l'economia dell'intero Friuli Venezia Giulia, ma anche di Veneto, Trentino Alto Adige, Carinzia e Slovenia, può trarre benefici sostanziali da questa carreggiata che attraverserebbe aree produttive di massima rilevanza. È proprio sull'aspetto delle ricadute interregionali e transfrontaliere che Cisinti intende puntare con Bruxelles, spiegando che la superstrada va vista come opera strategica per l'intero comprensorio dell'Alpe Adria e del Triveneto. Il MIB di Trieste accoglie da oggi 160 discendenti di emigrati del nostro paese che nel corso di 20 anni hanno partecipato al programma Origini. Obiettivo: offrire formazione di alto livello nel settore imprenditoriale, rinsaldando allo stesso tempo le radici italiane. Continui applausi e un grande entusiasmo che dimostra l'attaccamento dei 160 ex studenti, tutti discendenti di terza e quarta generazione, che hanno frequentato il programma Origine Italia, ospitato dal MIB, la scuola di management post laurea che ha sede a Trieste. Questi studenti sono solo una parte dei 380 che hanno frequentato da più di 20 anni il programma Origini, un corso di formazione di alto livello in gestione dell'export e imprenditorialità. Il corso dura 5 mesi, 2 in sede, quindi teorici, e gli altri 3 ospitati dalle aziende del territorio Friuli Venezia Giulia, ma anche Veneto e altre regioni d'Italia, aziende che sfruttano le competenze di questi giovani, che conoscono molte lingue, che hanno già un background di esperienze lavorative nell'ambito economico e commerciale. Il programma è finanziato con fondi pubblici regionali e anche dagli incentivi dell'iniziativa Centro Europea INCE per 260.000 euro annuo. Ne beneficiano 18 persone l'anno all'incirca. Da tutto il mondo sono 19 le nazionalità rappresentate. Il fondatore e amministratore delegato di MIB Trieste, Vladimir Nanut, ha sottolineato l'importanza non solo per queste persone di ritrovare le loro radici italiane, di riscoprirle, ma anche per il territorio che riceve il sapere di questi giovani che hanno molta voglia di integrarsi in questo territorio. Il 12% dei corsisti ha aperto una propria attività commerciale a seguito di questa esperienza col programma Origine Italia. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nuovo incontro fra le organizzazioni sindacali e l'azienda all'interno della procedura di riorganizzazione contenzioni occupazionali aperta da Aquileia Capital Service. Le organizzazioni sindacali hanno nuovamente contestato le motivazioni e le tempistiche della ristrutturazione avviata dall'azienda, in quanto in forte contraddizione con i recenti piani e indirizzi comunicati dalla società, non da ultimo anche nel bilancio. Gli aggiornamenti relativi a questa prima fase contrattuale saranno condivisi nell'assemblea dei lavoratori convocata per lunedì 23 settembre alle 9.30 all'hotel La Dimorette. Al via da Villa Manin la prima edizione di Friuli Venezia Giulia Bike Trail, l'evento non competitivo rivolto a tutti gli appassionati di bici e del turismo all'aria aperta. Sentiamo esattamente di che cosa si tratta. Un'ultima sistemata alla borsa, una controllata alla mappa, cambio maglia e via alla scoperta del Friuli. Partono alla spicciolata da Villa Manin i 470 iscritti a FVG Bike Trail, manifestazione di cicloturismo non competitiva, 2 percorsi ad anello, su e giù per il territorio, da San Daniele al Collio, dalla montagna a Lignano. Un giro da 205 km, l'altro da 490 km. C'è chi si vanta di riuscire a farlo in 24 ore, chi invece si prende il suo tempo e dà appuntamento ai propri cari dopo 4-5 giorni. Un'ultima foto per ricordarsi di suo marito non sudato e non stravolto dalla fatica. Giusto, perché non so in che condizioni lo troverò quando lo vengo a riprendere, in effetti. Da dove venite? Da Belluno. C'è chi è qui perché aveva i nonni friulani e chi lascia che a cullare la pedalata sia la nostalgia. Ho scelto il percorso quello lungo, vengo da Lucca. E siccome il Friuli mi piace, ci ho lavorato 40 anni fa, quindi sono rimasto legato a questa terra. Il 30% degli iscritti viene dall'estero. Oliver, per esempio, è qui dalla Svizzera. Perché questa regione? Per prima cosa non la conosco, l'ho vista su Instagram e mi sono detto, perché no? Giacomo Miranda, ideatore e organizzatore di FVG Bike Trail. A seguito di quella che è stata un'esperienza fatta in Toscana, abbiamo detto: ma sì, la Toscana è bellissima, ma insomma anche sappiamo che in Friuli abbiamo tantissime cose di cui siamo assolutamente orgogliosi e che ci fa piacere poter permettere alle persone di scoprire. Un'app per scoprire percorsi, metà dei quali su strade bianche, indica dove sostare, cosa guardare e soprattutto dove rifocillarsi. We are from Polonia. Siamo polacchi, sono qui con mio marito per un grande giro, bei panorami, buon cibo e per divertirci in questa avventura. Codroipo, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi a Osopo la passeggiata 10.000 passi di salute guidata da istruttori di attività fisica laureati in scienze motorie lungo l'anello di San Rocco, che comincia dal Parco della Colonia e si sviluppa per 7 chilometri attorno al Colle di San Rocco, attiguo al celebre forte di Osopo. Il ritrovo sarà alle 16.45 al Parco della Colonia in via Tagliamento 16, davanti al cartellone del progetto FVG in Movimento 10.000 passi di salute. La partenza è prevista alle 17. Ci ha illustrato il progetto e il percorso Marco Feruglio della SD Sport & Fun. È un progetto che nasce con l'intenzione di promuovere l'attività fisica sul territorio del Friuli Venezia Giulia e che ha l'intenzione di trasmettere alle persone che non hanno mai svolto attività fisica o svolgono dell'attività fisica molto semplice la possibilità di iniziare a svolgere del movimento in semplicità e in economia. Il percorso sarà quello dell'anello di San Rocco. Che percorso è e che caratteristiche ha? All'interno del progetto ci sono appunto, oltre che l'attività fisica, vengono promosse anche delle passeggiate, tra cui l'anello di San Rocco nel comune di Osopo. È un percorso che è misto, ovvero sono presenti alcune parti dove si può camminare appunto sui marciapiedi, sull'asfalto, ma anche alcune parti all'interno dei sentieri, dei campi. È un percorso quindi variegato che rimane alla portata di tutti. È un anello indicativamente di 7 chilometri che impiega all'incirca 2 ore, 2 ore e un quarto per essere percorso, che ha la possibilità di interrompersi o eventualmente essere ridotto per chi avesse delle difficoltà maggiori e ha diversi punti di interesse anche storici in cui ci si può soffermare e anche eventualmente fare una pausa. Hanno viaggiato per oltre 1.000 chilometri su un mezzo appositamente attrezzato per il lungo trasferimento. Due grifoni recuperati nella Germania centrale nel mese di giugno, a un paio di giorni di distanza l'uno dall'altro, sono arrivati la settimana scorsa alla riserva naturale del lago di Cornino, dove hanno potuto recuperare pienamente le forze. Le condizioni dei rapaci risultavano complessivamente buone, ma gli esemplari apparivano piuttosto deboli ed è così parso opportuno un loro soggiorno nell'oasi specializzata che ha provveduto all'applicazione delle radio satellitari sugli uccelli, un maschio e una femmina, entrambi dal peso superiore agli 8 kg. L'operazione, informa il direttore scientifico della riserva, Fulvio Genero, è stata condotta in collaborazione con vari istituti e associazioni che si sono preoccupate di reinserire al più presto in natura i due grifoni in un'area sicura e controllata, nella quale fossero già presenti colonie della loro specie. E la scelta, appunto, è ricaduta sulla riserva di Cornino. Ieri pomeriggio la liberazione. Dal punto di alimentazione, gli esemplari si sono involati prendendo rapidamente quota e dimostrando un'ottima forma. I loro spostamenti saranno seguiti tramite monitoraggi effettuati nella riserva e con i dati forniti dalle radio satellitari. Ed è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Mauro Ciccarelli e Mauro Coloni. Da parte di Lara Zani ed Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.